Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sarà la crisi che invita a risparmiare anche sulle spese per i prodotti alimentari, o sarà perché cresce il numero di pensionati che hanno anche tempo libero? Ma il fenomeno degli orti urbani si sta diffondendo con grande rapidità sia nelle città sia nei comuni delle varie province venete. La richiesta di spazi da coltivare supera spesso però l'offerta e questo mette in luce il problema della disponibilità di terreni da poter destinare a questo tipo di iniziative. Non sono tantissimi infatti quelli che rimangono liberi negli spazi a ridosso delle città, tanto che spesso questi orti sono creati utilizzando settori di parchi e giardini pubblici. Italia Nostra, la nota associazione che opera per la salvaguardia e la promozione del patrimonio artistico italiano e anche ambientale, ha avviato un progetto su scala nazionale proprio in tema di agricoltura urbana. Per questo abbiamo invitato oggi in trasmissione l'avvocato Evaristo Petrocchi, responsabile nazionale proprio per il progetto Orti Urbani di Italia Nostra. Benvenuto intanto in trasmissione. Volevo chiederle subito, Italia Nostra, perché si occupa di orti urbani innanzitutto, visto che la conosciamo soprattutto almeno dalle nostre parti per grandi iniziative di sensibilizzazione e di promozione del patrimonio artistico e architettonico. Davvero, è oltre 50 anni che si occupa di tutela, soprattutto rivolta al patrimonio artistico, storico, monumentale e paesaggistico. Ma il progetto Orti Urbani non è qualcosa di avulso da queste finalità, è proprio voler continuare questo interesse rendendolo ancora più attuale rispetto ai nostri tempi, che come lei ha ricordato sono tempi in cui si vive la crisi economica, che non è solo una crisi in termini finanziari, è una crisi di valori, è una crisi di coscienze, è una crisi del persone che si manifesta in tanti settori e uno dei modi per coniugare l'attualità, che l'attualità è tutto quello che oggi significa vivere in questo tempo, dalla comunicazione anche nei suoi aspetti esagerati, eccessivi, no? Certo. Della virtualità di quello che viene rappresentato, all'accelerazione che dà il mondo attuale a tutte le manifestazioni. Quindi dicevo, quello che si vuole fare è coniugare queste esigenze dell'attualità riportandole a un valore di tutela del territorio, della terra, del paesaggio. Quindi ristabilire un rapporto vero con la terra, con l'agricoltura, che è la nostra storia. È la storia in tutti i sensi, è la storia certo. In termini di tutela del paesaggio, dell'agricoltura, insomma, tutela dei rapporti effettivi tra le persone. Ecco, il vostro progetto che cosa prevede esattamente? Il progetto nazionale Orti Urbani è un progetto che mette al centro l'agricoltura di qualità, perché lei saprà che Italia Nostra, è vero, quando prevede tra le sue finalità statutarie la tutela del paesaggio, intende anche il paesaggio agrario. Paesaggio agrario che è uno dei più importanti, perché come si fa a tutelare il paesaggio se non tutela il paesaggio agrario? Il paesaggio agrario non è fatto solo delle grandi coltivazioni, no? Ma è fatto anche delle piccole coltivazioni, dei microcosmi costituiti dagli orti medievali, ma anche dell'agricoltura di qualità che si va estendendo in molte zone. Noi vogliamo favorire l'agricoltura di qualità contro l'agricoltura di massa, l'agricoltura standardizzata che non porta nulla all'economia se non speculazione. Non possiamo trasferire la speculazione anche nell'agricoltura. L'agricoltura deve essere a servizio della comunità. Quindi il progetto nazionale Orti Urbani è un progetto che rimette al centro l'importanza dell'orto come luogo di legame con la terra, nelle sue specie, tutelando il territorio, il paesaggio italiano in ogni sua parte pur nelle diversità, creando una rete tra tutte le diversità italiane in termini paesaggistici, storici, ma unendole appunto da un fine comune. Tra l'altro abbiamo presentato il progetto proprio quando si celebrava il 150° dell'Unità d'Italia, proprio per dire che l'Unità d'Italia passa anche attraverso la coscienza di queste importanti territoriali che sono la nostra storia. Senta, come mai questo ritorno, anche che mi pare anche diffuso in tutta Italia, quindi non solamente dalle nostre parti venete, agli orti, questo recupero degli orti, non credo sia una questione solo legata alla crisi economica? Appunto, perché l'orto è un legame con la terra, come dicevo prima, e non è di secondaria importanza l'aspetto etico-economico, perché specialmente nelle grandi città e nei momenti di crisi questo rappresenta un modo di sostentamento, come era nei periodi, come è sempre stato nella tradizione degli orti, perché nei periodi delle crisi, delle pestilenze, delle guerre, la gente si rifugiava e viveva della propria economia agricola, no? Nelle certo. città. Ma al di là di questo, cioè, come dicevo prima, un significato più profondo. Che cosa noi vogliamo riscoprire oggi dell'Italia e rivalorizzare, se non un'economia etica a favore delle comunità? E come facciamo a farlo questo, se non con progetti concreti? L'idea nostra non è soltanto l'associazione dei vincoli formali o della tutela del bel monumento, l'idea nostra è la tutela del paesaggio, che è qualcosa di ancora più vasto, che comprende in sé anche il singolo monumento. Noi possiamo tutelare il bel centro storico, noi abbiamo bellissimi centri storici d'Italia, ma poi abbiamo delle cornici completamente rovinate, no? Invece con gli orti, che vanno intesi anche come intere aree a servizio della città, penso che le posso dire, le aree del Termino, dove sono diffuse viticolture di qualità, i colli umbri dell'olivo, la Conca d'Oro a Palermo, cioè noi abbiamo intere zone che dobbiamo sottrarre alla cimentificazione e al consumo del territorio, ma lo vogliamo fare in modo propositivo, cioè dicendo che quelle aree, se fossero censite e inserite nella pianificazione in modo corretto, potrebbero essere destinate ad attività di agricoltura etica invece che appunto alla solita cementificazione. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo riprovo ancora le stesse emozioni di allora. È come se gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni, ma se vuoi sorvolo insieme a te, io prendo il volo, ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Tanto tempo fa, se ti ricordi il posto era proprio là, in riva al mare aspettavamo, con gli ombrelloni chiusi che diventava chiaro. L'imbarazzo al mattino, che c'era il sole che ci illuminava, quelli senza le catene, ma se vuoi sorvolo insieme a te, io prendo il volo, ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca, ma se vuoi io prendo il volo, ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia. riprendiamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di orti urbani, lo stiamo facendo con l'avvocato Evaristo Petrocchi, responsabile nazionale per il progetto Orti Urbani di Italia Nostra. Ecco, dove c'è questa maggiore attenzione al recupero degli orti? È una cosa che in Italia possiamo identificare in alcune zone geografiche più che in altre, oppure è abbastanza diffusa ovunque? No, è una tendenza che si va diffondendo e che lei diceva prima, l'orto era conosciuto, è stato conosciuto essenzialmente per i pensionati, per il 65. Ora c'è tutta una tendenza evolutiva che vede l'orto non più soltanto per queste categorie protette, per queste categorie dei pensionati, per il 65, insomma di coloro che stanno un po', come dire, sono oggetto di una particolare attenzione per la loro debolezza, ma ormai è diventato l'orto come esigenza di tutti, l'orto come parco culturale, e la tendenza che si va sviluppando è proprio quella di farne un motivo di riqualificazione del territorio, di riqualificazione sociale. Io le posso fare tanti esempi che sono diversissimi l'uno dall'altro, ma che in fondo sono uniti da un tratto comune, che le posso dire. A Genova, in una zona degradata che è quella di Begato, dove c'è un enorme fabbricato degli anni 50-60 che ostruisce completamente la visuale, si pensa di riqualificare quella zona proprio con degli orti, no? Sono circa 300.000 metri quadri, perché quell'area era oggetto e poteva essere oggetto di degrado, ma anche degrado sociale, droga, che le posso dire, emarginazione e così via. Ecco, nel Veneto c'è qualche progetto in particolare, qualche area che l'ha colpita in maniera particolare? Uno dei primi comuni, come lei sa, che ha aderito al progetto è Padova, al quale abbiamo presentato il protocollo nazionale adesso col Ministero, che è un'area dove il comune sta manifestando anch'esso questa esigenza in modo visibile, cioè di considerare l'orto come una pertinenza al servizio delle residenze. Cioè, come io ho il parcheggio, ho la cantina, devo avere uno spazio verde che serve per tutte quelle esigenze di socializzazione, di incontro, che le dicevo prima, non secondarie anche l'esigenza di evitare il degrado in piccoli ritagli di territorio che esistono tra palazzo e palazzo. Anche quelle aree diventano tante volte discariche oppure vengono occupate semplicemente con fabbricati anche abusivi. Ecco che allora quello lì invece, che può diventare un motivo di degrado, diventa un motivo di qualità dell'ambiente, no? Ma ci sono anche orti di grande pregio, orti in città medievali, Foligno, Perugia, Assisi, dove lì allora la finalità è anche di recuperare il patrimonio storico-culturale. Come vede, gli orti sono molto diversi da situazione, se si va dalle grandi metropoli agli orti medievali. In Sicilia ci sono intere aree, Palermo vuole aderire con la Concadora, Favara addirittura c'è l'intero vallone per 70 lotti di superficie di 300 metri quadri uno, dove l'intera vallata deve essere orti, è prevista la costruzione di orti a servizio della comunità. Ma tutti sono uniti da questo filo comune che le dicevo. Quindi l'orto può essere un recupero della nostra storia e comunque anche del nostro paesaggio, anche a fini turistici, sociali, non so, per vari motivi. L'arredo urbano, no? Queste standardizzazioni di arredi, panchine, illuminazione che sono tante volte fuori luogo, invece devono essere luoghi di bellezza se fatti in modo adeguatamente. Noi ci proponiamo come guida culturale in questo processo. La ringrazio. Prego, arrivederci. Arrivederci. Passiamo adesso ad alcune brevi notizie. Secondo la Commissione europea, la produzione cerealicola del continente dovrebbe stabilizzarsi nel 2013 in 287 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,6% rispetto al raccolto 2012. La media del raccolto ad ettaro è di circa 5 tonnellate. Anche la superficie totale dedicata alla coltura cerealicola, stimata in 56,9 milioni di ettari, è in crescita di uno 0,2%. A questi dati andranno sommati quelli della Croazia, che a giugno entrerà a far parte dell'Unione Europea. Il perdurare di un alto livello di prezzo sul mercato mondiale sembra aver spinto gli agricoltori a preferire la semina di grano tenero. Dal 15 al 17 marzo si tiene la sesta edizione di Verde Casa, idee verdi per casa, giardino e benessere, la fiera dedicata al florovivaismo e non solo. Tutto il benessere del verde da vivere giorno per giorno nelle nostre case, le proposte più originali e innovative per godere della natura all'interno e all'esterno, le soluzioni abitative verdi per ogni esigenza. Tutto questo e molto altro a Verde Casa, la manifestazione della Fiera di Padova dedicata a tutti coloro che amano circondarsi di natura, sempre alla ricerca di nuovi spazi verdi nel vivere quotidiano. Si svolge invece sabato 16 e domenica 17 marzo a Villa dei Leoni di Mira dalle ore 11 alle 18 la seconda edizione dei Fiumi del Vino, una mostra degustazione di vini nati in prossimità dei fiumi italiani. Ospite dell'edizione il fiume Marna e il suo Champagne. Oltre 40 aziende italiane troveranno spazio nei sontuosi ambienti cinquecenteschi della villa e offriranno in assaggio al pubblico le loro eccellenze. L'ingresso è di Euro 8. La manifestazione è organizzata dalla delegazione di Venezia della FISAR, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Mira. In conclusione, diciamo che altri due prodotti italiani sono stati aggiunti dall'Unione Europea alla lista delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Si tratta del salame felino e della mela rossa di Cuneo. Il primo è un salame di maiale prodotto nella zona di Parma, la seconda è coltivata in provincia di Cuneo e di Torino. Anche con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo che potete riascoltarci sul sito www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.